Hashtag Autotrasporti. Buonasera da Andrea Ferro, bentrovati a questo speciale di autotrasporti dedicato alle strade italiane. Un viaggio, un racconto lungo le rotte che autotrasportatori e automobilisti compiono quotidianamente. Un viaggio spesso reso accidentato da un sistema di collegamenti che rivela la sua inadeguatezza. Già i numeri parlano e indicano l'estensione e la problematicità di una rete costretta a dipanarsi come un groviglio di nervi che si irraggiano, si intersecano, quasi si confondono forzatamente, plasmati dall'irregolarità del nostro territorio che dal mare si arrampica, si incunea, si appiattisce e poi di nuovo risale, bucando il cuore e la testa del paese. Eccoli i numeri. La rete autostradale è lunga 6.800 km, l'insieme di strade statali, regionali, provinciali e comunali fa 840.000 km. Un sistema infrastrutturale variegato, concepito e impalcato ormai tempo fa, sull'onda lunga del boom economico che ci trascinò verso il futuro, più degli altri paesi. Oggi il presente delle strade è così prevalentemente il passato. Negli ultimi decenni poco è stato fatto per ridisegnare, calibrare, accorciare le distanze, riparametrandole su una geografia politica mutata. E se il nuovo non è venuto avanti, il vecchio ha palesato via via la sua età, senza il sostegno di adeguate terapie di mantenimento, insidiato dal dissesto idrogeologico, anche quello figlio della stessa scarsa lungimiranza. Viadotti che franano, ponti che non stanno più in piedi, in Sicilia la cronaca ce l'ha raccontato giusto qualche giorno fa, e ancora strade che sono gruviere, dove la sicurezza non è più garantita. Strade del sud, ma anche strade del nord. Ecco, stasera proviamo ad imbatterci su queste strade, che talvolta paiono tunnel bui, provando a raccogliere un po' di luce e raccontare quello che non è stato più fatto e quello che forse si farà. A spiegare come, nell'attesa della realizzazione delle opere, grandi o piccole che siano, si possa recuperare efficienza a favore di chi, lungo queste strade, vive e lavora di giorno e di notte. Mariano Bella è il direttore del centro studi di Confcommercio. Per conto di Conftrasporto ha indagato l'Italia disconnessa. La lunghezza della rete autostradale nel nostro paese è cresciuta nel periodo che va dal 90 al 2013-2014 di 700 chilometri, in Germania di 1200, in Francia di 1300, in Spagna di oltre 2000. Se guardiamo la rete ferroviaria in alta velocità, abbiamo che in Italia è cresciuta di 475 km, in Germania di 2000, in Francia di 4500, in Spagna di 10.000. Ora, dopo questo caporetto dei numeri, credo ragionevole porsi una domanda: sono pazzi gli altri che investono in infrastrutture di trasporto e siamo intelligenti noi, oppure, date anche le tristissime performance del nostro paese negli ultimi 20 anni, forse non è arrivato il momento di fare una riflessione laica, diciamo, senza ideologia, sul fatto che è vero che la logistica è quella che conta, cioè tutto il sistema dei trasporti e del movimento e dello stoccaggio di merci e persone e di movimentazione di persone, ma fare una buona logistica senza infrastrutture adeguate non si può. 850.000 chilometri, tanto è lunga la rete stradale italiana, dicevamo. Vecchiotta, quindi, trascurata, al punto che una strada su due non può dirsi sicura. A sostenerlo è Siteb, l'associazione che riunisce costruttori e manutentori di strade. Secondo uno studio presentato di recente, alla fine del 2015 il consumo di asfalto in Italia toccherà un record negativo. Saranno stati utilizzati poco meno di 22 milioni di tonnellate di asfalto, cioè esattamente la metà di quanto ne fu consumato nel 2006, 9 anni fa. Significa quindi che, come abbiamo sentito, essendo poche le strade di nuova costruzione, lo standard di manutenzione di quelle esistenti è ormai ai minimi termini. Massimo De Donato ha intervistato Michele Turrini, presidente di Siteb. Abbiamo cominciato con un calo prima che ritenevamo fosse soltanto il sintomo di un assestamento, poi abbiamo notato che i fondi per le manutenzioni praticamente non ci sono più stati perché gli enti dovevano rispettare nei patti di stabilità. E quindi la cosa più semplice era quella di tagliare i fondi. Tagliati i fondi, significa che oggi, per rifare quello che abbiamo perso negli ultimi 5 anni, dovremmo spendere circa 50 miliardi. E quindi la criticità è già detta, 50 miliardi sul tavolo non ci sono, ovviamente, e non ci saranno, e quindi ecco. Tra l'altro si avvicina l'inverno, che è un periodo particolarmente critico, soprattutto per chi vive in città, quindi la situazione andrà sicuramente peggiorando nei prossimi mesi. Penso proprio di sì, perché la mancata manutenzione ha provocato le classiche buche che poi vediamo in città, o comunque asfalti con ammaloramenti, con fessurizzazioni che durante l'inverno provocheranno nuove rotture, perché l'acqua entrerà, farà la sua azione dirompente, il ghiaccio farà nelle zone dove ghiaccerà ancora rottura sui fondi di asfalto. Certo, e quindi andrà sempre peggio. Qual è l'impatto di questa scarsa manutenzione sulla sicurezza e sull'aumento del tasso di incidentalità? Enorme. Ad esempio ANAS ha deciso, mancando i fondi, ha deciso di ridurre la velocità. Strade che avevano normalmente 110 km orari sono state ridotte a 80. Sono state declassate per mancanza di manutenzione praticamente. Esatto, e questa mancanza di questo abbassamento di velocità la dice lunga sulla pericolosità della mancanza di manutenzione, perché una buca a 110 all'ora, come potrebbe essere una strada a scorrimento veloce, nel caso migliore magari soltanto i nostri pneumatici e le sospensioni delle nostre macchine, che dureranno molto meno, ma in casi peggiori feriti o morti. Un quadro evidentemente grave, e certo non è stata colpa del tempo o di chissà quale variabile imprevedibile. L'Europa ci ha appena bocciati. In generale, per come gestisce i trasporti, l'Italia è 25esima. Dietro di noi ci sono solo Grecia, Polonia e Romania. È mancata una strategia, certamente sono stati spesi male i quattrini, ora il governo prova a correre ai ripari mettendo mani al portafogli. Nelle scorse settimane il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Del Rio, ha presentato il piano pluriennale 2015-2019 di ANAS. Le linee essenziali dalla voce di Gianni Vittorio Armani, presidente di ANAS. Concetti come la manutenzione straordinaria diventano concetti innovativi effettivamente, perché per tantissimi anni non si è pensato che le infrastrutture costruite avessero bisogno di manutenzione. Su questo con il ministro abbiamo predisposto un piano pluriennale che prevede 20 miliardi di euro di investimenti e in modo totalmente innovativo rispetto al passato quasi il 45% di questi investimenti saranno sulla manutenzione straordinaria. Nel corso di questo speciale torneremo ad ascoltare il presidente di ANAS, Armani. Nel frattempo andiamo direttamente sulle strade per raccontarle dal territorio e andiamo in Umbria, nel cuore quindi dell'Italia, regione baricentrica sulla cartina geografica, in realtà una periferia difficile da raggiungere. Daniele Morini ci accompagna sulla E45, la Orte Mestre. Veicoli in piena efficienza e con tutte le dotazioni invernali in questo periodo dell'anno per scendere dalla Romagna verso il Lazio. Si parte da Cesena. La strada statale 3bis Tiberina, conosciuta da chi viaggia su gomma semplicemente come E45, unisce Ravenna a Terni con una lingua d'asfalto lunga 250 km. Collega la valle del Savio a quella del Tevere, attraversando la dorsale appenninica. Un'arteria che periodicamente finisce sulle pagine di cronaca per brutti incidenti o singolari curiosità, come il bovino che nell'agosto scorso ha deciso di farsi due passi sulla quattro corsie bloccandola per 2 ore, o nelle scorse settimane lo sfogo su Twitter dell'attore Alessandro Gassman che parla di mulattiera abbandonata. L'ANAS risponde annunciando la presentazione a breve di un piano di manutenzione straordinaria con l'inizio di nuovi lavori. Cantieri a volte dalla durata infinita, come quelli fra Verghereto e Bagno di Romagna, dove a memoria di automobilista o autotrasportatore quattro corsie aperte sembra non ci siano mai state. Sui cantieri ecco Giuseppe Biancarelli, presidente della Commissione Trasporti del Consiglio regionale dell'Umbria. È fortemente attraversata, necessita di una adeguata manutenzione. A breve dovrebbe essere formalizzato l'accordo di programma con il governo centrale, che metterà a disposizione circa 10 milioni di euro che serviranno per la manutenzione. Biancarelli conferma anche che l'ipotesi periodicamente ricorrente di trasformare la E45 in strada a pedaggio ormai è stata scartata dalle istituzioni. Siamo anche di fronte a una situazione di crisi dell'economia, per cui dobbiamo anche pensare che mettere un pedaggiamento potrebbe essere costoso per l'economia e potrebbe avere un effetto depressivo anziché di ripresa sul sistema economico. Noi dobbiamo garantire che questo diventi un problema nazionale. Per il momento mi fermo qui, ci risentiamo dopo la pausa. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presento Hashtag Autotrasporti. Di nuovo buonasera ad Andrea Ferro per una puntata speciale di Autotrasporti. Oggi stiamo compiendo un viaggio lungo le strade italiane per raccontarle da vicino, per provare a spiegare perché, dopo le grandi opere realizzate tra gli anni 50 e 70, la nostra rete non ha più saputo rispondere alle esigenze dei territori, così come l'intero sistema infrastrutturale, quindi anche ferrovie e porti, a lungo ha arrancato senza prospettive pianificate. Dicevamo nella prima parte che recentemente l'Europa ha bocciato il nostro sistema dei trasporti, ponendoci in fondo alla classifica dei paesi della comunità. C'è un parametro che vale una conferma, semmai la quantifica. Ogni italiano trascorre quasi 39 ore all'anno in coda per colpa delle strade congestionate. La media europea è di 31 ore. Di qui al 2010 ANAS avrà a disposizione 20 miliardi per interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione delle arterie strategiche. Il 63% delle risorse sarà destinato al sud e alle isole, poco meno di 13 miliardi. E non è che in passato non siano stati riversati quattrini lungo le strade italiane, anzi. Troppo spesso però questo fiume di denaro si è disperso nei mille rivoli scavati dalla politica per salvaguardare le posizioni nei collegi elettorali, al punto da arrivare a deviare i tracciati dei nastri d'asfalto, spesso solo per una cerimonia da cinegiornale con la posa di prime pietre alle quali ne sarebbero seguite ben poche altre. Su questo punto sentiamo di nuovo il presidente di ANAS Gianni Vittorio Armani. I fondi dell'ANAS al 100% hanno nome e cognome, e il nome e cognome prescinde completamente dall'utilità trasportistica dell'investimento, e quindi vengono appunto attribuiti ai singoli collegi, non solo, ma creando anche delle incompiute pazzesche, perché abbiamo pezzi di strada realizzati a quattro corsie e poi abbandonati perché magari il politico che li ha promossi nel frattempo, diciamo, è andato in disgrazia e quindi non è più in grado di portare altri fondi. Non solo, ma erano progetti tendenzialmente assolutamente approssimativi, quindi progetti approvati in forma preliminare, quindi poco di più di un tracciato sulla cartina, che poi in realtà consentivano di fare delle assegnazioni a delle ditte che poi facevano progetti esecutivi completamente diversi, molto più costosi, inseriti in un contesto idrogeologico molto complicato. E quindi un insuccesso anche industriale. Quanti soldi buttati senza lo straccio di una strategia, di un'idea ispirata alle effettive esigenze di un territorio, di un sistema paese. Per il presidente di ANAS è l'ora di una svolta gestionale radicale che spezzi l'indeterminatezza delle responsabilità, causa ed effetto di un sistema che non regge. Oggi non si sa di chi è la responsabilità del fatto che le strade siano manutenute male, perché non avendo fondi ANAS ultimamente che cosa poteva fare? In realtà invece a me piacerebbe un mondo in cui ANAS ha i fondi, ha le risorse per poterlo fare autonomamente andando sul mercato, e poi però gli si richiede il rispetto di obiettivi e, diciamo, della performance minima necessaria per dare un buon servizio. L'esempio classico, praticamente il simbolo di come certe strade diventino idrovore di quattrini pubblici, è appiccicato ad un'autostrada, la Salerno-Reggio Calabria, sulla quale nei prossimi anni pioveranno altri denari, ben 1.771 milioni, prevede il piano quinquennale di ANAS. Salerno-Reggio Calabria è un'infrastruttura che in realtà ha avuto tantissimi fondi nel passato, forse troppi, 20 anni di cantieri sono sicuramente, diciamo, un eccesso, però diciamo, noi contiamo di arrivare alla fine di quest'opera entro l'anno prossimo, ovviamente correndo coi cantieri, però ecco, è un'opera largamente infrastrutturata. Invece altre infrastrutture hanno avuto molto meno soldi e richiedono un recupero del gap, in particolare le autostrade siciliane, la Ionica in Calabria, ma andando su sulla penisola ci sono l'E45, la Orte Mestre e poi diciamo molte viabilità secondarie che comunque costituiscono la rete infrastrutturale di base della nostra nazione. Il presidente di ANAS Gianni Vittorio Armani ha citato la Sicilia, dove mentre ciclicamente si torna a parlare del ponte dello stretto, la rete stradale agonizza letteralmente spezzando l'isola. Ponti che non reggono più, traffico deviato, tempi di percorrenza infiniti. Dalla Sicilia Letizia Carrara ci accompagna in un altro pezzo del nostro viaggio. Una strada che si interrompe con una voragine di 20 metri è la statale 58 che collega l'IA Scaflani Bagni nel Palermitano, crollata 2 anni fa e da allora neppure una transenna limitarne la circolazione. Qui giovedì scorso si è sfiorata l'ultima tragedia, ma tra frane e smottamenti le strade dissestate in Sicilia sono lunghe più di 3.700 chilometri. Il crollo del viadotto Imera sulla Palermo-Catania dello scorso aprile è solo la punta di un iceberg e la regione scopre, ammette l'assessore regionale al territorio Maurizio Croce, di non avere alcuna viabilità alternativa. Quando è crollata la A19, che è l'arteria principale, si è messa a nudo una situazione di viabilità secondaria, perché se lei pensa che per bypassare un tratto di 1 chilometro deve fare 50 chilometri, cioè le strade di collegamento secondario sono messe peggio delle arterie principali. L'elenco delle strade crollate, inondate dal fango, franate, sterminato, si va dalla provincia di Caltanissetta, dove i crolli cominciano nel 2009, quando sulla 626 la Caltanissetta Gela si spezza in due il viadotto Geremia. Peggio nell'Agrigentino, un anno fa è crollato il viadotto Scorciavacche, 6 mesi dopo quello Petrulla, mentre il viadotto Verdura sull'Agrigento Sciacca era già collassato nel 2013. Neppure si contano le arterie interrotte tra Palermo e Trapani e in provincia di Enna su 120 strade ben 40 risultano chiuse. E poi c'è anche il malaffare di 3 giorni fa, l'ultimo sequestro di alcuni tratti del raddoppio della statale 640 Caltanissetta Agrigento per presunto uso irregolare di materiale cemento depotenziato. Per la manutenzione la regione ha messo sul piatto 49 milioni di euro, ma programma con i 2 miliardi di euro del patto per il sud del governo nazionale. Abbiamo identificato 2 assi prioritari, una è la viabilità secondaria e uno è il dissesto idrogeologico. Abbiamo anche messo in sicurezza delle autostrade, diciamo quelle gestite direttamente dalla regione siciliana. E il versante orientale dove a gestire le autostrade il consorzio siciliano il CAS non se la passa meglio. La A20 Palermo-Messina, dopo essere stata costruita in appena 37 anni, risulta essere ancora tra le più pericolose del Mezzogiorno. Nuove strade, un piano strategico svincolato dalle pressioni, manutenzioni adeguate. Alla fin fine è troppo semplice immaginare la corsia da seguire per accelerare questa ripresa, ma al di là delle buone intenzioni, per migliorare le infrastrutture i tempi restano inevitabilmente lunghi. Nel frattempo ci sono strumenti sui quali agire per provare a rendere efficiente un sistema. Ascoltiamo ancora Mariano Bella, direttore dell'ufficio studi di Confcommercio. Non è soltanto un problema appunto di infrastrutture, ma per esempio è un problema di infrastrutture. Infrastrutture vuol dire infrastrutture, diciamo, digitali, virtuali, quelle su cui corrono le informazioni per allocare in maniera ottimale persone e merci. Ci sono tantissimi soggetti nel nostro paese che ragionano di piattaforme digitali logistiche. Si tratta sostanzialmente di raccogliere i dati di tutti coloro che partecipano alla movimentazione di persone e di merci, scambiarsi questi dati e fare in modo, che ne so, che un tir che arriva in un porto perché deve imbarcare i suoi container sulla nave abbia già, diciamo, la strada libera in termini di che cosa sto trasportando, che controlli devo fare, quando arrivano questi controlli, quando arriva la nave su dove, ok? Quindi tutti questi dati possono essere messi a sistema per rendere più facile, più agevole, più efficiente il trasporto. Nell'attesa di nuovi ponti, viadotti, tunnel, carreggiate più ampie senza buchi, insomma, cerchiamo di rimediare con le informazioni. Autostrade per l'Italia, in collaborazione con la Polizia Stradale, ha varato una nuova app per smartphone dedicata agli autotrasportatori. Si chiama MyWay Track. Paolo Berti è il direttore centrale Operations di Autostrade per l'Italia. Abbiamo tutta una serie di informazioni riguardo alle percorrenze, allo stato della viabilità sulle tratte principali del gruppo Autostrade per l'Italia, ma non solo, ma anche perché tramite altre collaborazioni diamo anche sui percorsi alternativi anche sulle strade principali italiane, quindi diamo informazioni sul traffico in tempo reale a tutti questi nostri clienti. Tra l'altro c'è un'applicazione molto simpatica che si chiama Follow Me, che seguimi, e praticamente pur nella strada senza impostare il navigatore con questa applicazione dà tutte le informazioni che sono previste nel proseguo del tragitto, quindi informa preventivamente su incidenti, su condizioni meteo avverse, su una chiusura di un tratto, su una deviazione o su una zona trafficata solo per traffico, e quindi insomma ci sono tutta una serie di informazioni che possono dare idea di come ottimizzare il viaggio, come anticipare una pausa oppure prendere un percorso alternativo, cose di questo genere. Quindi. Su questa rete stradale che arranca ci sono categorie come gli autotrasportatori che non si fermano mai o quasi, talvolta destreggiandosi tra le falle di un sistema infrastrutturale che palesa i suoi limiti, i suoi acciacchi cronici. In questi giorni, in queste settimane, si parla di modificare, alleggerire, limare il cosiddetto calendario dei divieti dei mezzi pesanti nei giorni festivi e in particolari momenti dell'anno. Secondo le associazioni dell'autotrasporto si tratta di un'esigenza inderogabile per poter stare al passo con ritmi produttivi che non contemplano pause. Non è una semplice rivendicazione di categoria, il presidente di Anita Thomas Baumgartner spiega il senso di questa necessità. Sull'infrastruttura viaria viaggiano due utenti fondamentali, l'utente per lavoro dell'autotrasporto, quello che fa un servizio all'economia del paese, poi c'è l'utente che utilizza le strade come privato per andare a ferie, per andare a promuoversi e così via. Purtroppo succede durante l'anno che in certi periodi, soprattutto di ferie, queste due esigenze collimano, e noi abbiamo visto che in questi periodi c'è la tendenza di cercare di bloccare l'autotrasporto. Noi riteniamo che questa è una scelta sbagliata, perché l'autotrasporto dovrebbe essere sempre avvantaggiato per poter servire il paese e l'economia, e bisogna trovare altre forme per riuscire a far camminare tutte e due le esigenze. Noi abbiamo proposto per questo di considerare in questi periodi di grosso traffico, sia di privato ma anche di camion, di vietare ai mezzi pesanti di utilizzare le corsie di sorpasso sulle autostrade. Questo per noi sarebbe una soluzione per combinare le due esigenze. Noi come associazione speriamo che il governo questa proposta la prenda in considerazione, perché altrimenti la produttività dei nostri mezzi cala, non riusciamo a fare il servizio e il costo del trasporto del nolo aumenta, che poi si riversa di nuovo su un problema di produttività dell'Italia e anche di costo del prodotto finito che va a decidere su tutti i cittadini. Aperture ci sono state da parte della Polizia Stradale, di ANAS, eppure i gestori autostradali si sono detti disposti a studiare una revisione del calendario dei divieti. Ascoltiamo ancora Paolo Berti, direttore centrale Operations di Autostrade per l'Italia. Lo trasporto pesante stiamo pensando, però siamo sempre in ottica di verifica all'interno delle istituzioni, di utilizzare qualche domenica che ha diciamo un minor traffico per poter aumentare la fascia di disponibilità delle ore disponibili per il tragitto per i mezzi pesanti. Quindi stiamo facendo delle proposte che vanno da un'ora a qualche ora in più nelle domeniche di basso traffico. Questo perché pensiamo che in queste fasce ci possa essere un effetto desaturazione sul venerdì e sul lunedì. Quindi cosa vuol dire? Se noi garantiamo qualche ora in più, permetto una cosa, che c'è una legge che impedisce la domenica il muoversi dei mezzi pesanti tranne quelli in deroga. Però questa legge dice che c'è un divieto, ma non dice di quante ore, quindi si può agire sul numero di ore che possono essere garantite. Noi abbiamo individuato una serie di domeniche, stiamo vagliando con il Ministero dei Trasporti, l'Associazione dei Consumatori e diciamo la Polizia Stradale quali sono queste domeniche e quale potrebbe essere l'impatto di desaturazione del traffico nei giorni adiacenti a questa domenica. L'inverno è alle porte e così è la neve. Viabilità Italia, la struttura istituita presso il Ministero dell'Interno, ha appena presentato il piano neve. Contiene l'elenco e la classificazione dei tratti più a rischio, una quarantina, sui quali, in seguito a determinate condizioni atmosferiche, sarà interdetta la circolazione ai mezzi pesanti, per i quali sono predisposte le cosiddette aree di accumulo, cioè temporanei spazi di sosta individuati direttamente all'interno dei tracciati autostradali oppure lungo la viabilità ordinaria. Ma è possibile che in caso di neve si debbano chiudere le autostrade quando ciò non avviene, salvo casi eccezionali, neppure nei paesi del nord? Secondo gli autotrasportatori, negli anni scorsi si è assistito a blocchi disposti anche se non sussistevano condizioni particolarmente critiche. Anche questa è una questione di manutenzione e di investimenti. Ascoltiamo ancora Thomas Baumgartner, presidente di Anita. Noi riteniamo che come utenti delle autostrade che paghiamo pedaggi salati, perché in fin dei conti sono i pedaggi più estesi sulla rete in tutta Europa, non ci sono autostrade quasi che non si pagano pedaggi, e riteniamo che i concessionari con questi soldi che incassano abbiano il dovere di garantire che le autostrade siano libere. Non possiamo capire come mai nei paesi nordici dell'Europa, Germania del Nord, paesi scandinavi dove abbiamo nevicati quasi tutti i giorni d'inverno, questi piani neve o divieti di circolazione non esistono. Se lì riescono a pulire le strade, deve essere possibile anche in Italia. E certo, per un concessionario questo è un costo, sarebbe più facile non avere questo costo e chiudere le autostrade, però noi questo non possiamo accettarlo. Noi pretendiamo che le autostrade siano rese praticabili perché paghiamo il nostro servizio. Questo speciale di autotrasporti dedicato a strade ed autostrade finisce qui. Vi ricordo gli appuntamenti di Radio 24 con il mondo dei trasporti. Lunedì alle 13.45 c'è hashtag autotrasporti. Il sabato alle 13.15 va in onda Container, il settimanale di approfondimento. Grazie per l'attenzione. Da Andrea Ferro, buonasera. Hashtag autotrasporti. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.